giusto fare così. Diamo due allo stesso, uno uguale al mio, per dire. Infatti. Ma non c'ha soldi, cosa fai? Vabbè. Ma comunque sono, pure se non è tutto questa cosa, però module lo stesso. E chi su Ganimucci non sa c'è a pagare? Ti credo da un poco. Guarda, ma conto, e da lui ha detto, la telefonata ha detto che non va via di là, se voleva andare a fare il notturno. A fare la notte, e te prima cavare lì, alla buio vecchio. Chiappa. Avrete sì, va bene, l'avrete. Quant'è quella giornata? Allora metta quei soldi sotto il tavolo, sto arrivando. Se faccio tutto quanto e via. Ti prego. E un attimo che sono al telefono. Tu? Un attimo al telefono. Attenzione, 21K, ti ascolto, già ti ascolto, ti sento, già ti sento, aspettando a Gianni che venga al telefono, K, ti ho rotto, K. Hola, hola. Giusti, giusti. Attenzione, Piero Paolo, se mi ascolti, cambio. Piero Paolo. Sono qua. C'era Piero Paolo col portatile, come mai non sta rispondendo? Mi ascolti. Ho tanto ti ho sgamato, sei col portatile, vieni avanti. Bevendo il caffè ci starà. Ah, e allora niente, eh. Kappa, dai, era al telefono 5 minuti. Però ti stavo dicendo, girando state cominciando a girare o no? Già abbiamo girato qualche pochino. Adesso domani, vediamo. Cava. Va bene, là, un po' di fili a respirare un po', cazzo. Sempre casa lavoro, è dura, eh? Già lo so. A Roma coverci druzzato, gà. Invece, manco la soddisfazione, cioè. Lo so, tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Purtroppo ci offre poco questa vita, poca roba. La vita già soffrende ricchi, cazzo, non il bovaro. I ricchi sono sempre quelli che sanno fatto. Tu devi venire a vedere cosa avvengono da noi, questi che ci hanno imbarcazioni enormi da a 20 metri, 22 metri, velieri, cazzo, che non finire più a fare la spesa, se fanno portare sulla barca, no? Quando vado, sono vecchi, di panzutti e pieni di femmine, hanno sempre sul tavolo la bottiglia dello champagne, col ghiaccio, sono a pazza all'aria, vivendi. Ma la più fine no, secondo me non verrà vazza né ne manco, Ehi, a prendere Viagra, siamo i metodi loro, prendono Viagra e ce la farà lo stesso. Caffa, dopo ci la gira la manico di baracqua. E poi si fa i commenti di mio collega che l'ha provato e si ha due. È stato una ghida, dice che magari mantavano i gonfi. Ha fatto effetto di chi sei proprio a lucina. Si dà bisogno di tui, mi va. Qua, faccio è. Ehi, la bella Dudui ha fatto un effetto allucinante. E cappa cappa. Sei quattro, cosa vuoi farci? Dite che in avvia la vagonia ci buruta a casa. Io è nuda. E vabbè. Ha detto che era un po' di tempo che non le funzionava più. E allora gli ha voluto dare. Ha voluto dare il coso. La benedizione. Ma dico, cazzo. Ma è esagerato però puro. Io so di gente, cioè so. Abbiamo portato gente che dal Viagra ha avuto l'infarto, lo sai. Fai forza. Gente che è anziana, c'aveva donne giovani e cose, e quando fa brutti figli si ribigliava di lui. Uno addirittura è morto completamente, era un bestione di persona, E la moglie ci ha detto, è inutile nascondervelo, stavamo facendo l'amore, è morto così, ha preso le pastiglie. Cappa. Sono contrario. Ma la pastiglia c'è da gozo. E sei il contrario, tu. Ma tu arriverai a un'età che magari anche tu ne farai uso. Come gli anziani di adesso, 65-70 anni, li usano. Cappa. Ma per il momento non è il caso. Ce n'è ancora. Vabbè. Tutto è sfruttare la situazione. Cappa. Non è ancora va. A diventare anziano vivone, altri 30 anni vivone forse. E di più. A voglia che venne ancora. A meno che non mi farà un prima. Tutto è possibile. Non è detto che per forza d'anziano, ti può succedere anche prima. Fa culo. Ah, sto scherzando. Ragazza. Sai già che poco fa vendere i guasti. Raga. Un guasto mi stava scocciando. Oh. Pure della portante. E non l'hai conosciuto chi è? No, io sono un cazzo, mullavo non intendeva più, lo faccio a me. Ah, ti mettevo la portata quando stavi parlando e poi come mollavi. E beh, tu non hai provato a parlare più a metà discorso può mollare. Capo, ci stavo provando, devo trovare la tattica giusta. C'è sempre gente che si vuole divertire così. Sì. Lascia roba, Ed. Vabbè. Siccome c'è poca gente, no? Oggi non c'è quasi nessuno, se non ci siamo noi non va a fare niente, né di gara, chi ha gioia non viene su. E allora vanno a rompere le scatole dove c'è gente, no? Cappa. E non sei così bene, mi senti già a casa tua? Benissimo. Poco fa era ciavo tutto il giorno l'altro ciavevo. Hanno già bucato questo. A me pare che chi sia azzurro lo attacchi in occhi. Tanto se no lo fa brutta fine. Staccalo già. E cazzo sarà... sarà Roma stesse. Poco fa ho usato anche l'altro, E quello grande. Hanno attaccato in tutti oggi. Ma io già ogni tanto ce li faccio girare, l'altro giorno c'avevo il magno per dire, di solito uso questo, poi ogni tanto anche coso l'Alan. Che cappa, portatelo già, cioè mettetelo lì, modula bene cosa ti ne affutti. Uno vale l'altro, io non ho molte pretese, è la verità. Vabbè, ma sai cosa c'è anche? Che qua c'ho già una, due stazioni complete. Due stazioni complete, anzi tre stazioni complete. Quindi immaginati tu, attacco un altro e so quattro. Sì, vabbè, ma io sai cosa faccio, per esempio, già. Cioè, se l'Alan 48 non lo stai usando, dire, togli l'Alan 48 e ci metti quello. E lo metti da una parte, dove, e poi per una settimana ti tratti ghiso, ma poi pigli e ti ho raffunichito, hai capito? Ci vogliono 2 secondi mi attaccare 2 cavi. Cioè non è che ci voglia tutto questo coso. No, ma non è per quello. Se mi è servito un posto, come dico io, tipo una stanzetta, uno sgabuzzino, qualche cosa così, avrei fatto come dicevo io la stazione, ma c'ho questo pezzettino. Sì, va bene, perché va bene, le radio stanno tutte bene, ma ne avrei messo di più, magari avrei messo i portatili, tutto il resto della maladaci cicocò. E cappa cappa. E vabbè, comunque già si può sempre usare quello là, c'è anche il filo lungo, quindi se te lo pone, magari a posto di uno ti metti quello e te lo sfrutti, hai capito? Da voi pigi ti botterà con il là. Ah, infatti. Ma già va bene, va, è un bel apparecchio. Scappa. E lo uso tutti, no, non va giù, non ho scelta. A me vanno bene tutti, logicamente quelli che preferisco sono un po' questi qua. Preferenza, però li uso tutti. Bisogna fare girare tutti perché se si guasta. Poi sto andando su internet, stavo guardando un po' di materiale. Mi sa che lo beccavo. Cosa ti interessa? Uno di questi cose. È il cabirruio. Quello lì. Cabirruio, Lo si chiama Cabirruio. E già lo so, già, c'è il nome della Ferrari, già. E allora? Quello è bello, no? Cazzo, gli attacchi chi su guai. No, è bellino. Ciappa. È presa abbordabile, già si può prendere. Se la putti dura. È lo stemma della Ferrari, l'hai vista? Beh, già lo credo, già. La Ferrari degli apparecchi. Magappa. Ah, vedi, sì, non passano, a ver se tocca. A zuccaia tocca, ma bisogna avere da voi se state problemi. Problemi di dati. I guai, disturbi vari e tutto. No, non penso. So già. Una cosa è non pensarlo, una cosa è provarlo. Se avessi avuto la possibilità di provare prima di comprare. No, non penso che devi farti di a nessuno. E te ne accorgi. Lo grido, sì. Lì in macchina ce ne vuole un'altra di batteria. Ma ce la fai con l'alimentatore? Scappa. Quando cos'hai per buone bisogni di 50 amperi? No, non l'ho letto quanto ci vuole. Mi pare che siano massimo 30, io ne ho 50. Guarda che di alimentatore ne ho una 50 che è libero. Quindi. Scappa. No, passo, a vedere se si batta la zampa. E Margo c'è un bel di là, ma la giusti. Non lo posso immaginare. Se fa la cosa, la non la leve, no, la quella marca, detta G. No, non è detta G. Lemme. 400 e passa euro costa. Ah sì, della LEM, vabbè, su tutti i peso. La LEM le fa buoni, Sì. Vabbè, adesso vediamo. Infatti non mi sono sbagliato, ho detto l'EM e non mi sono sbagliato. Cava cava. Ah. Infatti gli fa la l'EM. E non capisco, non mettono né numeri e niente. Non so. Ma direttamente dalla LEM bisogna ordinarlo? No. C'è un venditore. Ma quanto costa? Anto. Ma schiocca, balò. Non so, mi sembra che va anche a 24. 12. 12. 6.200. Scatti. Sei scatti, al sesto scatto fa 600 watt, in AM è 1200 in manda laterale. Dino. Cazzo carino, una bomba. Ma che sia con una divisione radio modificata? C'è scritto che non ha bisogno di accordatura. Accordano da soli quelle. Ci sono anche quelle della ZG transistorizzate che si accordano da soli. Già vanno abbastanza bene già. Ah no, non credo che andare bene. Come vi ha fatto? Ho sentito che ha chiamato col portatile, ma ero al telefono. Ah cappa, se no lo chiamavo, mi ce lo volevi per qualche cosa. No, se vuole entrare non c'è problema, ma non è che lo voglia per qualcosa di urgente, di cosa, no, quello non... Ah, capo, pensavo, e se no c'era problema, lo chiamavo. Kappa kappa. Ce n'è uno, Anto, della ZG, non so se sia buono, transistorizzato, che ha lo stesso wattaggio, 300 in AM e 600 in banda laterale. Come quelli veicolari, però è a 220. È buono. Non è... cioè, fino alla MOSFET. E questo non me lo dice. Sicuramente, stanno facendo tutti così già. Si stanno facendo tutti col fino alla MOSFET. Appa, è meglio. Non distorcono a me. Quali sono come emissione? Vabbè, non distorcono la radio, invece quelli della ZG, visto che è problemano, che distorcono tutti la radio, bisogna allinearli. Non è vero, ultimamente anche loro hanno migliorato. Dici? Sì, anche quelli piccoli che fanno la ZG sono tutti MOSFET. Ah, allora si sono adeguati. Perché l'unico problema è che bisogna allineare a palazzo con lineare. E cappa. Ah no, oramai tutti si sono evoluti negli anni. Anni? Avanti Leo. Beh, come il segnale la zona tua? E prova a vedere. 1, 2, 3. Ho visto. A vedere adesso. Santiago di 5 e la radio di 4. Così basso. Cappa. Cazzo, sono qua a Carbonazzi, boh. Strano, Cioè cosa dirti? Ciò che mi segna poi che ti sto dicendo, tanto come ti arriva a te? Basso io. Che altro mi vedi, sente basso? Strano, No, Giuseppe, non lo so. Qua sta segnando così e così ti sto dicendo, poi. È lo strumento mio, se nel tuo apparecchio, questo non lo so. Fatte già. Non ha fatto. Guarda quanto stai uscendo a Giuseppe. Con quanti watt? Io. Con quella della macchina sono già. La macchina? Quella apparecchio. Ah? Quella dell'apparecchio. E basta. Paga. Ma sono 4 watt, quanto sono? A scappa, ma lui è in macchina. Dove sei? Di qua, di fronte al... sto salendo per su via Calopericcio, dai, quella zona lì. Ah, da Vestana. No, sono ritornato ad Alessio perché mi ha fatto una cosa, l'apparato, hai capito? L'ho eliminato, ho fatto eliminare quelle cose della, che quando io distaccavo dalla corrente, scattavo la portante e rimaneva, facevo faccio contatto, capito? Stavo andando male già. Vedi che come ti chiamo la portante e ci attendiamo su qualcosa. Sì, perché ho messo l'antenna alla Turbo 2001, ma ne ha preso un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, adesso magari nell'assemblamento magari ha perso qualcosa. 2001? Sì. Cosa c'entra che il baracchino fa da male? Il baracchino può andare anche male perché magari c'è stazionario. No, non paghisco, no, già. È perché le parti ha un difetto, le parti, hai compreso? E adesso ho passato lì. Sì. Faceva un difetto, praticamente schiacciava la portante, cazzo, si accendeva il numero. Cioè, usciva a metà numero, non so che cosa. Com'è Giuseppe, mi sente? Adesso già com'è? Sono qua al quadrato, com'è il segnale adesso? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Adesso va bene. 9 qualcosa? 9-5, sì. Buttacelo. Hai capito. Ma come ha detto di buttarlo? Ciao Volte. Chi è che ha detto di buttarlo? Sono io. Buonasera comunque. Vittor Volpe da Sierra Sierra, Monte Oro. Vittorio, ben sentito, buonasera da Doppio Room. Avanti Vittorio di nuovo, sei compagno di Rioncino, Doppio Room e Bombolo. E capa, lo cedo adesso, gli ha fatto un po' di ascolto prima naturalmente come di consueto, sì, e Antonio gli ha la copia lì da quella donna là, lui mi copia sempre basso, lo so, purtroppo siamo opposti in questa collina e quindi c'è questo scompenso, e mentre quell'altro amico là da quadrato già arriva bene qui nelle mie coordinate a te. E io invece come ti arrivo, Vittorio? Bombolo, anche tu, tipo bombola. Ma ti arrivo basso, là? No, bombolo non vuol dire basso, bombolo vuol dire bomba, e bombolo vuol dire bombolo, è uguale. Ah, KK. E allora, Vittorio, ti mi contas, come stai? Sono a casa, oggi abbiamo fatto una faragostata qui arrostita alla grande e quindi dopo un riposino che si sono fatti i miei familiari, io però stavo facendo dei progetti sulla musica e mi sono messo nel mare, ho detto adesso l'accendo e vediamo un po' chi c'è, e non c'è nessuno, la verità, in altri canali, quindi mi sono fermato qui a fare qualche chiacchierettina anche con voi altri. KK. Vabbè, grazie per esserti fermato. Abbiamo fatto la tappabuchi. Insomma, la tappabuchi in frequenza, quando c'è qualche voce simpatica uno entra, poi è chiaro se gli fa piacere, se non gli fa piacere è chiaro che non entra, però nel momento in cui uno entra evidentemente è elogiato per questo. KK. Noi ci siamo sempre frequenza, solitamente siamo tutti i giorni, Vittor. Io non è che l'abbia abbandonata mai, anche quando ci sono stati quei 10 anni di bianco, che c'era poca gente, la domenica, io, Mario, Gian Maria, quei pochi che c'erano, entravamo. Sì, beh, naturalmente, però la persona della radio non è che ce l'abbia proprio assidua, può capitare ad esempio il periodo di buca, perché purtroppo è così, perché si ha tantissimo da fare, io adesso in questo periodo sono impegnatissimo e quindi non è tempo a disposizione, non ne abbia tanto. Capita così che adesso proprio oggi è che proprio posto, c'ho questa buca di un'oretta, un'ora e mezza, ho detto ma adesso provo a accenderlo anche per mettere in azione questi apparati. E allora molto appunto senza accenderlo, quindi ne approfitto per fare una chiacchieratina. Sentiamo Antonio cosa da dire. A te Antonio. Gaffa, eccomi qua. Ti ha rilanciato Volpe. Ma buonasera Vittorio Volpe. Buonasera, Antonio, mai ti ho salutato, probabilmente non avrei ascoltato perché il segnale video lo sai che è bassissimo, però purtroppo le condizioni atmosferiche oggi, anzi sempre di propagazione, dovresti ascoltarmi perlomeno a te. Già ti ascolto bene, tu non mi ascolti bene? Bassissimo, neanche si sente lo smetter muoversi, però la radio si sente proprio bassa bassa bassa. L'abbiamo già appurato che le distanze e le posizioni geografiche non sono molto felici. Gaffa, gaffa, dai, proverò a migliorare un po'. Avanti già. Oh Giuseppe, a Giuseppe tocca, avanti, leoncino, cambio. Anche se eravamo da molto senza sentirci noi. Ma io ti dirò che ieri sera, o avanti, non so le seconde, ho avuto una chiamata al telefono e mi sono dovuto trattenere molto, la verità, e sono rimasto un po', non so se mi avete chiamato dopo, ma io purtroppo mi sono dovuto sentare e poi scappare via di casa per fare un intervento e quindi sono dovuto andare via. Non so se hai notato quella buca. Cappa di Rogero, visto? Era un piccolo QSO ieri che mi è piaciuto, capito? Eravamo tranquilli in frequenza e poi sono entrati gli amici e ci ha fatto piacere. Cioè, tieni presente che io quando entro in frequenza è un piacere per parlare con chi mi fa piacere, a me fa piacere parlare con tutti per carità, però non ci sono problemi per quanto riguarda poi a qualche piccolo screcio che può capitare di carattere parlato, perché molte volte si parla, non è che si parla a vanvera, può capitare che tu parli e dici le tue cose, poi uno le interpreta in un altro modo e magari chissà cosa può pensare, ma non è successo niente, perché anzi ognuno la pensa in quella maniera lì e credo che sia per quanto riguarda me giusta, poi che la voglio interpretare in un'altra maniera se la pensi pure così. Come vuoi ti dico, io i miei sentimenti li esprimo in quel modo lì, tutto qua. Arrivato al discorso ieri, Vito, adesso ero da casa di Pompugno, di Alessio, ma a riguardo a quell'apparato che ho a casa, che non si può fare niente, dunque dice è inutile che tu ti cambi la scheda, è stato male che ti compri l'apparato nuovo perché spendi più di scheda che di apparato, capito? Appunto, è proprio quel consiglio che ti davo io, se era necessario, buono, altrimenti conviene appunto recuperare un apparato già ripristinato in quella maniera lì, oppure già completo di quella situazione e andare avanti in quella maniera. Purtroppo quello lì non lo so, però credo che si possano recuperare queste schede qua, però appunto non ne vale la pena, e quindi ecco che è confermato anche lui il mio dire. Cappa, no, gliel'ho portato perché c'aveva un problema di ameditazione, quella cosa della corrente, no? Che io distaccavo l'apparato e schiacciavo la portante e mi appariva il numero, capito? Il numero della frequenza. E dunque cazzo, ho detto ma strano che questa cosa, cazzo, che non riesco a risolverla. Ha provato, abbiamo controllato nel test e tutto quanto. E adesso l'abbiamo risolto, gli ha attaccato una specie di diodo e non è fa. Scusate aspetta un attimino, c'è una bassa. Ha fatto, ha messo un diodo al coso, allora abbiamo provato, di fiancato e non è fa. Pare che fra 5 minuti sono sotto casa tua, dai, ti faccio vedere quell'apparato là. E io? E sali, dai, io adesso lo scendo. E vabbè, fra 5 minuti sono sotto casa tua, dai. E almeno vedi che cosa è. Papà. No, no, un po' meglio qua così. Sei atto? Sì, sì. Bene, sì, abbastanza bene. Poi anche troppo forte quasi. Già sono sotto casa tua. Dove c'è l'Antonio? Ah, Antonio. Ma adesso che ha fatto questo esame, quello dopo la qualisce. No, no, no, è il mio, è il micro. Ma cosa già esce bene? Già esce bene. Adesso cerchiamo un parcheggio e... Adesso qual è la sala tua, dai. Pappa, ciao, Pappa. Positivo di Pappa, buon coggio. La madre non era ancora presente, cambio. Buonasera, Radio Vera, in compagnia di Leoneschino, ma Volpe e Doppio Ru. E non che bombo, avanti. Positivo, ho sentito tutto, cambio. Spero che stia funzionando ancora. Ha funziona, funziona tutto. Ciao zio! Zio, sono piccolo piccolo, vedi? C'è questa lasciata dalla macchina che sta salendo a casa a fare vedere un appalto. Scusate un attimo. Sabata. Hola, bene. Attenzione, 21, cambio. Che ce l'avevano come amica e mi ha chiesto se potevo venire in Sardegna, se io ero occupato, se qua, se da, voleva già maritarsi. Allora, se viene qua ci abbiamo roba sarda. E niente, no, non ho chiuso la lista, ho detto che l'ho sposato tutto qua, ma se no, credo che ti abbia mai a casa. Hai visto il coso? Ti ho messo un video su YouTube. Ho messo? Sì, così io l'ho messo distentato. Ah, tu vieni. Perché hai visto live? No, Antonio, sinceramente mi stavo parlando con quel mio amico che è carabiniere, te l'ho detto, quel mio amico che ho ritrovato su Facebook. Eravamo d'ombre che non ci vedevamo, sta facendo il carabiniere in furia, e quando ci sentiamo ci raccontiamo un bel roba perché siamo molto amici. E adesso da tanto che non ci vediamo, ha detto che al più presto fa di tutto per venire qua. E K. Devo fare Gianco, devo fare Gianni. Ce la sentiamo, se è possibile dopo, eh. Ok. Vabbè, non c'è problema. È un po' sentato Leoncino. Leoncino, ci sei? Andare a fare una missione di paparate. Cosa tu? Fai una missione di paparate. Missione di patate devi fare. Sì, yeah. All'inghinica alcuna. Anto, fuori di gabbus. Chi sei nuda? Vabbè dai, bianco, cara. Che cara che nessuno è di novia. Attento, Leoncino, ci sei. Leoncino.